Le piacevoli notti, libro primo di Giovan Francesco Straparola. Quarta favola della quinta notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Filippo Gioachin. La signora disse: Signor Benedetto, udite quello che dice il vostro molino. Mettete adunque mano alla scarsella e tirate fuori una contadinesca favola e con quella rallegratene tutti. Il trevigiano alla sua favola diede principio, così dicendo. Favola quarta. Marsilio Versolese ha malattia, moglie dececato raboso, ed in casa lo conduce. E mentre che ella fa uno scongiuro al marito, egli chetamente si fugge. Ma de cancagno, Madonna Parona, e vu bella briga, che v'impare? Non se lo portò ben messer Antonio? Non ve lo contò una bella storia? Ma a sangue de can, che me vuò sforzar a mi de far menore. No altri delle vile, ho sempre sentì dire che gli uomini del mondo, chi se governa un uo e chi ha l'altro. Ma mi mo, ca son mi, e ca non so niente de lettra, a dire con asadito i nostri veci, chi mal baia, ben solassa. Pazienza. A fare a mi così. Ma no cri miga, ca ve diga ste parole, par ca vuoge musar la faiga de contarve una noela. Ca ne miga paura de non la saer dire. Anzo, la noela cavò con Tom e Ser Antuonio, con tanta bella grazia, che non se può asonzere, ma sì n'animò, cano che vego lume, e sì me par milagni a dover comensare. E forsi che Madonna la non sarà gnan manco piacevole e deriso della sua, e massimamente, cave di re della struscia d'una femmina della vila, che fe una befa al poltron de suo marì, e se me starì ascoltare, e mi darì buona udinzia, a sentirì de belo, avesso dirmi. Alghè sotto il tegnire de piove de sacco, territorio de Pava, come cherso ca tutti vu su piaciaro, una vila, ca la domandò un salmassa, e invelò, za gran tempo fa, che soleva abitare un arsente ch'avea nome Cecato Raboso. E chi cal fesse o masso grosso dal cervello e della persona, gli era per giondena puoretto e fido. Sto Cecato Raboso avea per mogliere una figliuola d'una massaria che se chiama i Gagliardi, d'una vila che se domanda Campelongo. E si gera giovane, strutta, scaltria e maledetta, e avea nome Tia, ed esonta, oltre che gli era accorta, gli era anche Gagliarda, della persona e bella de volto, e non gli era un'altra containa a pareci megia d'intorno che potesse stare al paragon coela. E perché gli era gagliarda e valente del balare, ognun che la vedea si innamorava del fatto suo. E parse pure che un giovane bello e gagliardo anglù della persona, Massitain Gramego de Pava, che se chiamava Marsilio Versolese, si innamorasse d'estatia. E sì fieramente si innamorò che dove l'andava in su la festa al balo, sto giovane sempre andava anch'elo, e la maggior parte dei suoi bali a non falerava neanche, i fasea coela. E benché sto giovane fosse innamorò d'ela, el tenia il suo amor scoso pil che il poea, per non dar di intendere alla brigade fuora via, né che dire a negun. Marsilio, sapendo che Cecato suo marì gli era poveretto e vivea delle sobrasse, e che dalla mattina per tempo china alla scura sera lavorava ora con questo, ora con quell'altro, a ora, el comenzà a arvistare la ca della tia. E così belamen el se smestegò coela, che gli comenzò a favelare. E a ben che Marsilio avesse delibrò into il suo animo de palesarghe l'amor che gli portava, tamen niente de manco e dubitava che la non se scoresasse e che la non volesse pi vedere. Parzò canoghe parea che ella gli fesse quella buona siera che parea che il meritasse all'amore che gli portava. E poi anche il temea de non esser descoerto da qualche mala persona, che il faesse intendere accecato suo marì e che cecato poi gli facesse qualche dispiacere, perché se gli era ben grosso, gli era anche geloso. Andagando Drio Marsilio col gran sollecito a rivistare la ca dove stasea la tia, e guardandola fisso nel volto, al fe sì fatamente che ela se accorse che elo gli era innamorò di Nela. E parsondena che anche ela, per pur assai rispieti, non che poeva far buona siera, né mostrare che anche ela gli era innamorata di elo, e il ben che la gli volea, la se dolea e se torcea da sua posta. Stando un giorno la tia sola a sentà sora un soco che gli era a piede l'usso de fora della ca, e avendo la rocca sotto il braccio con della stoppa invogià intorno che la filava per la parona, venne Marsilio che pur l'aveva fatto un po' de buon cuore, e sì, disse la tia: Dio ve salve, tia, ben mio. E la tia che rispose: Ben vegnè quel giovane. Non sa io, disse Marsilio, che mi consumo tutto e muoro per vostro amore, e vu non ven fè conto, né vincurè del fato me. La tia che rispose: Mo non so niente, mica me vogia ben. Disse Marsilio: Mo se uno il sai, con gran dolore e passion del cuore, adesso mo vel dico. E la tia che risponde: Mol sebe mo adesso. Disse in quella volta Marsilio: E u, de, disime il vero della vostra cara fe, me voliu ben? Rispose la tia: Po', disse Marsilio, e quanto se Dio va via? A sé, risponde la tia. Disse Marsilio: Oimè, tia, se u me voesse ben, al muò che u me di, u me il mostreressi con qualche segnale, ma non me volì fatta mentre gosso. Rispose la tia: Muò che muò? O oh, tia, disse Marsilio, ul sai molto ben, sanza che il vediga. Se de mica non se, sa non me di sì. Disse Marsilio: Mo avel dire, e mi starì ascoltare, che non la bia male. La tia che risponde: Di sì pure, messere, cave prometto, sul cargo dell'anima mia, che se sarà cosa che suppia da ben e da onore, che non arò par male. Disse Marsilio: Quando voliu cagal della tanto vostra disia persona? Mo avesso ben mo adesso, risponde la tia, cametrognè e che vin trasì del fatto me, a non se convegnum ben a uno, assisita in de pava, e mi so containa della vila, assi ricco, e mi son poeretta, assi gramego, e mi so arsentela, avorissi delle grameghe, e mi a son delle refuè, assi galoso, co supponi lavorò, e le calze insegnolè, e tutte sopra l'eco del drapo de sea sotto. E mi no viu co tutto il garnello scrasso, sbrendolò e arpesò. Nego altro al mondo co questa cotola e quella bandinella che me vi indosso quando avago de festa al balo. Magna pan de fromento, e mi pan de megio, de melega e della polenta, eppur na esse quanto avvogio. E sì so senza pelissa questo inverno, gosso, poareta mi, e sino a se mai come a fare neanche, parché no ghè né dinari in roba da vendere par poer comprare de cose con bisogno. Nega om tanta biava da mangiare che ne fasse inchina a Pasqua. Né a sé come faronte, meco tante carestì, sì grande, e angarica convegnum pagare ogni dia pava. Oh, poveretti nu della vile, che no me ben. Nu, a se stenton a governar le terre e semenare il frumento, e u il magnè, e nu poveretti a magnon la melega. Nu a bruscon le vi e fason el vin, e u el bevi, e nu a beon de graspi e dell'acqua. Disse Marsilio, no dubitè de questo, ca se u me vorì contentare, a nove mancherè de tutto quello che sarì domandare. A digi ben così u altri uomini, rispose la tia, inchino a ca fassi il fatto vostro, ma po ve n'andè in là, ca non si me pive giù. E le poarete femmine restano ingannè, sbertesè e svergognè del mondo. E po v'andè lagnando e lavando la bocca di fatti nostri, cosa fosa ben qualche carogna trova into i lo amari. A so ben mi, cosa i fare o altri gitami de pava. Disse Marsilio, o su, basta mo, metto un po' lo parole e vegno ai fatti. Voliu far so che va dito? Rispose la tia, andè via per la bella amor de Dio, innanzo che vegna il mio omo, che l'è sera e si venirà a cade botto. Tornè domande di, ca parlerò un po' quanto vorì, avevo ben ben sì. E perché l'iere insargò fieramente ragionar coela, a non se voleva partire, ela che tornò a dire, andè mo via, se ne piace, non stè pi. Vedendo Marsilio, che quasi la tia si scoresava, disse, stè con Dio, tia, dolce anima mia, va recomando il mio cuore, cavin le vostre man. Andè con Dio, rispose la tia, cara speranza mia, calò ben per recomandò, sì. Arvedesse doman, piasando a Dio, disse Marsilio, movemo bene. Rispose la tia. Quando fu venuto man, Marsilio che parea milagni di tornare dalla tia. E quando che parse che fu venuto l'ora d'andare, l'andè a casa sua e si trovò la tia nell'orto che la sapava e arfossava certe viatele che la ea. E così tosto che s'aveva su tutti i du, i se saluà e da po' i se mise a ragionare. E da po' che aveva velò un gran pezzo de compagnia, disse la tia a Marsilio, domande maitina, speranza mia, cercato di andare al molin, e non tornerà a ca china l'altra maitina. E u, piasando a vu, venierì da sera, da bassora, qua ca ve spietarò, mo venì senza falo, e non me trognè. Quando Marsilio aveva intendu sci bona nuela, non fu me omo ca esse tanta allegriscia co la velù quella fia, e trasse un salto, e tutto allegro e de bona voglia se partì dalla tia. Subito cecato fu venù a ca, la struta femmina se che mese incontra e sì che disse, cecato, frelo me bon, bisogna andare al molin, che no gè che magnare. Rispose cecato, mo bene. A dighe che il bisogna andarghe de mattina, disse la tia. Rispose cecato, mo ben, de mattina in ansio di andare a farmi imprestare un carro coi buò, dagli uomini dona lavoro. E sì venire a cargare e sì me n'anderè. In sto mezzo, tia, andò a parecciare la biava e in saconla, che da domattina narò altra briga che metterla sul carro e andarsene cantando. Mo ben, rispose la tia. E fe a sto muò. Venù che fu doman, cecato messe la bia, che la ea insaccò la sera in ancio, in sul carro, e si andò al molin. E perché gli era dai dì curti, e le notti geron lunghe, e le strada piossi, fanghi e giassi tutte rovinè, e il ferdo gande, e povero cecato, convenia star tutta quella notte al molin. E altro non desirava Marsilio, né neanche la tia. Siando venù la scura notte, Marsilio, secondo l'ordine che avea metù con la tia, tolse un buon paro di galline ben governè e belle cotte, e del pan bianco, e del buon vin senza gozzo d'acqua, che l'avea apparecciò in anso, e se partì de ca, e scosamente per traverso di campi andò a ca de la tia. E siando andò in ca, la trovò sul fogolaro, a piè del fuoco, che la naspava filo, e sì, se consò tutti i due a magnare. e da poco che aveva ben mangiò, gli s'andò a colgare in letto tutti due. Il povero babion dececcato masenava la biava al molin, e Marsilio in letto buratava la farina. Gli era già da mo' apparecchio de levarsi il sole, e sì, al se comenzava a sciarir il dì, quando i due innamorè se levò da letto, dubitando che cecato non trovesse colghe a un. E stagando de brigà a favelare do a lauro, un incontra l'altro, non stenè che né che, casonte cecato a ca, e trasse un gran subbio denanzo alla ca, e cominciò a chiamare: «Tia, oh tia, impiso il fuoco, ch'amor de ferdo!» La tia, che era scaltria e cativella col malano, come l'avesse intù venir il suo uomo, per paura che non intravenisse qualche male a Marsilio, e a ei la danno e vergogna, prestamente aversi l'uscio, e fe che Marsilio si scondede drio dell'uscio, e con volto allegro la gandò incontra, e si cominciò a caressare. E da po' che cecato fu entrare in cortivo, disse alla tia: «Tia, mo fa un po' di fuoco, ste uò, che son bella se lode freddo. Al sangue de San Quintù, che stanotte m'è cresciù celare, lassù da quel molin, tanto gran ferdo, ho già bu, e sì non è mai possù dormire gosso, né passar occhio.» La tia prestamente se ne andà al legnaro, e pigiò sotto il braccio una buona fassinassa, e sì che impissà il fuoco, e stava maliziosamente al fuoco, da quel che lo che parea che Marsilio non potesse esser vissuto accecato. E ragionando la tia, da buon a buon, co cecato suo marito, disse la tia: «Do cecato, frelo me buon, mo no vegio da contare una buona noela?» Rispose cecato: «Mo che, cara sorore?» Disse la tia: «Mo non ne sto chiarò un poeretto vecciarello. Da po' candiesi al molin a domandarmi limusina, par la bella amor de Dio, e perché a che diede il pan e anche da bevere una scuola de vin. Non malo insegnò una razion bella, cano asonse, né mai quando assentisse la più bella in vita mia de scuorasare il busò, e l'oggi anche ben imparà.» «Mo che m'è diretto?» disse cecato. «Dito davvero?» disse la tia. «Mo sì, alle fede compare, e sì le è anche ben a cara.» «Mo dilamo!» disse cecato. Rispose la tia: «Mo bisogna, frelo, che ghe su pian vu.» «Mo a che muo?» disse cecato. «Mo avel dire ben», disse la tia, «se me starì ascoltare.» «Mo che muo, dimmelo», rispose cecato. «Non me stentar pi», disse la tia, «mo bisogna che aveste di lungo disteso, quanto ca poi mai, e quanto ca sì longo, cosa fosse ben morto, che non vorrei sa parsontena, e che voltè la testa e le spalle incontro all'uscio, e i zenocci e i piè incontro al seciaro, e sì bisogna cave meta un drapo bianco delissia in sul volto, e po' cave meta il nostro quartiero in cavo.» «Mo non ghe porrà andare», disse cecato. «Sì ben, sì bene», rispose la tia, e guardò mo, e tolse il quartiero che era ivelò poco lunsi, e sì ghe il mese in cavo, e disse: «A non poria gnan stare miegio del mondo de Dio.» «E po'», disse la tia, «bisogna che staghe fremo, che non vemo vi né torse gosso, par che non fassa niente. E mi potore il nostro tamiso in man, e sì ve comenzare sudasare, e così sudasandove a dire la razion, che sto muo a faron e scongiuro. Mo guardè che non vemo vi in china, che non l'abbia dita tre fie, par che bisogna dirla 3 volte, sora de vu, e verrei bene se il busò darà pi in passo ai nostri ponsini.» Rispose cecato: «Magari a Dio, o fosse il vero quel che t'ha di, ca sospiressam pur un po', novito che non possono levar ponsini, che sto diambera de bussò chi magna tutti, e non che possono levar tanti, che possano tenir paghe i paron, né vendergene per pagare le angari e comprar dell'olio e del sale, né nient'altro parcà. Mo vivo, disse la tia, casto muò a se poron aiare sì co del nostro. Tapò, disse accecato, mo su stendive, e cercato se stende. Mo stendive ben, disse la tia, e cercato s'aiava delongarse quanto che il poea. Oh, così, disse la tia. E po' la pigià un sodrapeselo, dell'in bianco e netto delizia, e sì che coprì il volto. E po' la pigià il quartiero, e sì che il messe in cavo. E po' pigià il tamiso e sì il comenzà a s'adassare e a dir la razion che la ea imparò e comenzà a sto muò. Besuco te sì e besuco te fasso. Con questo metamiso a te s'adasso. Nei miei ponsili, che son ben 24, fa che il poesse né frassa né latro. No che entra dentro né volpe né rato. Nel malosel dal beco rampinato. Ti che si drio quel lusso, intiendi il fatto. Se te non l'intendere, te parè matto. Quando che la tia fasea il scongiuro e che la sadassava il tamiso, la tenia sempre gli occhi incontro al lusso e fasea l'atto a Marsilio, che gli era da drio lusso, che se musasse. Ma il giovane, che non gli era né patrigo né esperto, non l'intendea, né s'accorsea a che fin la tia faesse così fata faccenda. E sì, non se muoia niente. E perché cecato se voleva levare in piè, che gli era già mo stufo, disse alla tia, «Ben, è to compio?» Ma la tia, che vedea che Marsilio non se muovea gosso de drio de quell'uscio, rispose a cecato, «Stè so in malora!» Non v'è già udito che me bisogna scongiurare tre fie? Pur mo abbiende scongiò una cosa, che avea vi vo giù muovere. Disse cecato, no miga, no miga, no! E un'altra fia l'alfè colgare, e ella un'altra volta comensà il scongiuro a quel proprio muò che l'avea fatto in anso. Marsilio, che pur avea comprendù come stasea il fatto, senza che cecato el veesse, né che il s'accorgesse, in sì fuora de drio de lusso e musò via de belo. La tia, da po' che l'aveva su Marsilio che gli era musò fuora del cortivo, la compì de sconsurare il musò e fe che il beco de suo marì se levà su da terra e in compagnia della tia descargò la farina che gli era venuta dal molin. Stagando la tia de fuora del cortivo e vesando Marsilio dalla longa candasea de buon andare, la se messe a cridare, quanto mai de gola, che la poea «El, el, osel Pepe! El, el! Te che ven, se che ven! Alla fe! Ca te farè andare con la coa bassa, te dighe! Te par che il ghe supia in sargò, che il ghe tornò ancora sta mala bestia, atte del malan. E a sto muò, ogni volta che el venia e embusò, e che el se callava in cortivo per portar via i ponsini, in prima el se speletava con la ciosa, e po' la ciosa fasea il scongiuro, e il busò se desfantava, e se ne andava via con la coa bassa e non dea più in passo ai poncini del cecato e della tia. Fine della storia. Sì piacevole e ridicolosa fu la favola del trevigiano raccontato, che le donne e gli uomini si misero in sì gran risa, che quasi si sentivano scoppiare, né fu veruno nella compagnia, che contadino giudicato non l'avesse. Ma poi che ciascuno cessò di ridere, la signora rivolse il suo chiaro viso verso il trevigiano e dissegli: Veramente, signor Benedetto, voi in questa sera ne avete sì fattamente consolate, che meritamente e in verità potiamo tutte ad una voce dire la vostra favola non esser sta inferiore a quella del molino. Ma per contentamento nostro e di questa onorevole compagnia, voi proponerete, non essendovi però in dispiacere, uno enimma che non men dilettevole sia che bello. Il trevigiano, vedendo così essere il desiderio suo, non volle contraddirle, ma in piè levatosi, con voce chiara e senza indugio, allo enimma in tal maniera diede incominciamento: Vassi Erzovo in drio e in anti, che ve giù da tutti quanti. Chi da un lo sta, chi dall'altro, ben sarà quel fante scaltro, che da a quattro in su la schina, sa la prima lo indovina, tutta fia da buon amico, che l'esovo pur vel dico. Poiché il trevigiano, con atti assai contadineschi, ebbe al suo enimma, da pochi, anzi da niuno inteso, fatto fine, a ciò che tutti intendere lo potessero, nel suo linguaggio in tal guisa lo espose: Per no vartegnire, bella brigà, imbistante, savio che vo dire questo me fa velare? Mo vel dire se non sai. Vassi Erzovo in drio e manti, vo dire Erzovo con che sartien arzunti vuo al verzuro, e che va in su e in giù par le tere e per le stre, e si è vesù da tutti quanti, e quegi che stan da un lo e dall'altro, e già i buò che sta a pareggio, e quelù che da a quattro in su la schina, si è il boaro, che va drio con la gugia, che da al bo ca quattro piè, e tutta fia, vel dico, da buon amico, che l'è il zovo, e si a nome intendi? Piacque la isposizione del villanesco enimma e ciascuno tuttavia ridendo fu da tutti sommamente lodato. Ma il trevigiano, che sapeva a niun altro in quella sera toccar la volta del favoleggiare, se no alla graziosa Cateruzza, voltatosi con leggiadro sembiante verso la signora, disse: Non già ch'io voglia turbare il dato ordine, né dar legge a vostra altezza, che mi è patrona, anzi signora, ma per soddisfare all'onesto desiderio di tutta questa amorosa compagnia, mi sarebbe di grandissimo contentamento che vostra eccellenza partecipasse con esso noi le cose sue, raccontandone con quella buona grazia che ella suole alcuna favola che ci presti piacere e diletto. E se io per avventura fossi stato in ciò, che Iddio non voglia, più presuntuoso che quello che si conviene alla bassezza mia, prego la mia abbia per iscusato, perciò che l'amore che io porto a tutta questa graziosa compagnia di cotal domanda n'è stata primiera cagione. La signora, udita la cortese dimanda del trevigiano, abbassò prima gli occhi a terra, non già per timore né per vergogna che la avesse, ma perché pensava che a lei piuttosto per diverse cagioni apparteneva l'ascoltare che il ragionare. Dopo che atti leggiadri e onesti modi a letizia inclinati, ravvolse il suo chiaro viso verso il trevigiano e disse: Signor Benedetto, ancor che la dimanda vostra sia piacevole ed onesta, non però dovevate essere così sollecito dimandatore, perciò che l'ufficio del favoleggiare aspetta piuttosto a queste nostre donzelle che a noi. E però voi ne arrete per iscusata se agli onesti desideri vostri non saremo inchinevole. E Cateruzza, a cui per sorte è toccò il quinto luogo della presente notte, supplirà invece di noi. La festevole brigata, che era desiderosa di udirla, levossi in piedi e cominciò favoreggiare il trevigiano, pregandola sommamente che ella in ciò gli fusse benigna e cortese, né avesse riguardo alla qualità della dignità sua, perciò che il tempo e il luogo concedono ciascuno di quantunque dignità essersi voglia, poter liberamente narrare ciò che più gli aggrada. Fine della quarta favola della quinta notte. Registrazione di Filippo Gioachin.